Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Vincenzo Boccia, 52 anni, salernitano, laurea in economia, sposato con due figli, amministratore delegato di Arti Grafiche Boccia, fondata nel 61 dal padre Orazio. Nel 2003 è presidente regionale della Campania per la piccola industria, vicepresidente nazionale. Il 31 marzo del 2016 è designato presidente dell'associazione e viene eletto il 25 maggio del 2016. Simpatico, gioviale, ama scorazzare in moto sulle strade della costiera amalfitana ed è considerato dagli amici un sognatore. Questo si vedrà. Intanto ha celebrato la morte di Vittorio Merloni, simbolo del capitalismo moderno, ex presidente di Confindustria, scomparso di recente. L'abbiamo intervistato a Bisceglie nell'ambito del convegno Digiton. Questo è un estratto del faccia a faccia del 1983 con Merloni. Cesare Romiti, l'amministratore delegato della Fiat, recentemente ha dichiarato che il sindacato non è più rappresentativo della volontà operaia. Lei è d'accordo? È sicuramente molto meno rappresentativo di quello che era alcuni anni fa. Ecco, ma secondo lei l'unità sindacale è un bene o un male? Beh, credo che l'unità sindacale sia un fatto positivo, perché è meglio averci un'unità sindacale che tanti sindacati divisi. Quindi lo considero un bene. Penso. Ecco, oggi è di moda parlare di crisi del sindacato. Qualcuno però sembra voler trasformare questa crisi in una disfatta. Lei non trova che questa è una follia? Sì. Perché? Ma perché se non ci fosse un sindacato così organizzato, nascerebbero tanti sindacati spontanei, tante corporazioni, tanti che sarebbe più difficile controllare, organizzare, mettere insieme. Nascerebbero degli interessi corporativi più forti. Ma e allora perché una linea così dura nella realizzazione di questi contratti? Ma perché io le porto due esempi solamente. Le parlo dei metalmeccanici e dei tessili che stanno trattando in questo momento. Rappresentano per l'Italia 23.000 miliardi di esportazione, quasi quanto tutto l'importo del petrolio. Se noi perdiamo competitività in questi due settori, la situazione italiana peggiorerà moltissimo. Senta, Presidente, un'ultima domanda. Se dovesse delineare un identikit del suo successore, come lo farebbe? In modo molto semplice. Un imprenditore o qualcuno che viva con l'angoscia dell'imprenditore, che vive i problemi di tutta l'impresa, che abbia anche il rischio di dover fallire, quindi che rappresenti la classe imprenditoriale. Ecco, si riconosce nell'identikit fatto da Merloni 30 anni fa? Se oggi Confindustria ha un presidente che viene da una provincia remota dell'impero, che è Salerno, e che rappresenta una media impresa, evidentemente, come dire, determina una dimensione. Vabbè, quindi, di società, diciamo, si riconosce, ecco. Lei ha detto: non userò mai il termine discontinuità, lo ritengo irrispettoso per chi mi ha preceduto. Quindi quello che ha ereditato non è un carrozzone come pensano molti. Che cos'è? No, è un grande corpo intermedio dello Stato che ha grandi competenze, che deve chiaramente evolversi in funzione del contesto e deve contribuire a un'idea di rappresentanza, deve evolversi. Quello che abbiamo detto, per noi rappresentanza significa essere ponte tra gli interessi delle imprese e del paese. Però l'amministratore delegato della, che era una multinazionale della colla, ha detto: noi usciremo da Confindustria perché ormai è un ente politico burocratizzato. Sono critiche ingiuste? Io penso che sia un complimento quando si dice che Confindustria è un ente politico, perché Confindustria deve fare politica equidistante dai partiti. Certo, chi vuole difendere interessi di parte deve uscire da Confindustria. Che cos'è che deve cambiare assolutamente subito a Confindustria, lei? Ma Confindustria deve intanto, come dire, cominciare a essere soggetto, come dire, che conquista un ruolo, perché il ruolo si conquista e non si dichiara. Certo. È in atto un confronto su un'idea di intervento organico di politica economica del paese che interviene sui fattori e non sui settori. Mi sembra che questi sono due pilastri, scelte, diciamo, politiche. Un'idea, diciamo, importante di Confindustria. Lei ha detto che non userà il termine discontinuità, però Valerio Castronovo, che ha scritto un libro sulla sua azienda, ha detto: non avrei mai pensato a Enzo come presidente degli industriali italiani, perché se c'è uno che rappresenta la discontinuità è proprio lui. Quindi non ha capito niente Castronovo, anche se ha scritto un libro sulla sua azienda. Ha capito tutto, perché la discontinuità non si dichiara ma si realizza. Per questo io non parlerò mai di discontinuità, ma la farò. Diciamo, la farà. Vabbè, questa è una notizia. La prima notizia: la discontinuità si fa Non si dichiara, ok. Presidente Boccia, ma qual è la qualità principale per uno che deve fare questo suo mestiere nuovo? Qual è secondo lei? Ci ha pensato? In chiave associativa, dice. No, la qualità umana necessaria. Beh, intanto devi avere una grande capacità di ascolto. Sì. La seconda è che devi anche saper perdere, perché per vincere nella vita devi innanzitutto saper perdere. Sì. E devo dire che gli imprenditori italiani questo lo sanno fare, e a maggior ragione i nostri colleghi del Mezzogiorno, oggi siamo qui in Puglia. La terza è amare il paese e fare questo mestiere, diciamo. Quindi lei ce le ha tutte queste qualità? Passione. Penso di sì. Penso. Senta, il suo peggior difetto qual è invece? Ieri ho chiesto a mia moglie, me ne ha detti 6 o 7, diciamo. Non li anticipo alla sala, li lascio, diciamo, alla sensibilità di mia moglie. Ah, vabbè, insomma, non lo dice. Vedere di fare tesoro sui miei punti di forza, che è una delle caratteristiche degli imprenditori. Si diciamo. Propone per una santificazione, insomma, non riesce a dirlo. No, questo no, diciamo, perché ringraziando Dio l'ego lo lascio a casa, però diciamo cercherò di limitare i difetti e di lavorare sui punti. Senta, torniamo a Merloni, perché siamo sempre lì a quello che diceva Merloni da 30 anni fa con i sindacati. Lei ha detto dobbiamo fare da soli senza il governo, cioè? Cioè le regole dobbiamo sforzarci di scriverle noi come parti sociali, evitare che il governo le scriva per noi. Al governo va chiesta una dimensione fiscale delle regole che chiediamo. Faccio un esempio: se per noi è importante il nodo produttività perché è un deficit di competitività paese, su questa piattaforma dobbiamo lavorare a maggior ragione dopo la Brexit insieme al sindacato per risolverlo. Sono segnali positivi di questi accordi possibili? Cioè vede all'orizzonte margini di trattativa? Noi abbiamo un'aspettativa alta su questo. Vediamo che molte aziende adottano i contratti di secondo livello, quelle che le adottano sullo snodo produttività fanno dei grandi passi in avanti, su quella linea dovremmo agire insieme al sindacato. Quindi la partita si gioca sulla produttività, o si cresce o si muore, così? È così, perché in un'area euro in cui non abbiamo più in mano lo strumento della svalutazione, la produttività diventa, diciamo, lo strumento che rende competitive le imprese rispetto ad altre. Siccome negli ultimi 10 anni l'Italia ha perso 30 punti percentuali in termini di costo del lavoro per unità di prodotto rispetto alla Germania, noi questa forbice dobbiamo ridurla a parità di euro, altrimenti ci facciamo del male. Quindi lei dice salario contro produttività e contrattazione aziendale, questa è la strada. Sì. Senta, ma chi la conosce, l'ho detto prima, la definisce un sognatore. Le piace il sognatore? Non lo so, io diciamo, mentre lei diceva sognatore, mi sono ricordato di una frase di Anatole France che diceva: nella vita se vuoi compiere grandi passi non devi solo agire ma anche pianificare, non solo sognare ma innanzitutto credere. Certo. Io parto dal credere, poi arrivo al sogno, cerco di pianificare. A proposito di questo, ho letto che il suo master più efficace è stato quello di frequentare il mondo dei piccoli imprenditori, funzionari pubblici, intellettuali, giornalisti, commercianti, che frequentavano la tipografia di suo padre. Perché? Che cosa ha imparato parlando con tutte queste persone? Quella era una stagione bellissima, romantica di quel mondo che oggi non c'è più. Oggi noi abbiamo un'azienda a Salerno che esporta oltre il 40% del suo fatturato, in particolare in Europa, e non vediamo più clienti perché mandano dati grazie al digitale, ad internet, trasformiamo in carta stampata e mandiamo nel mondo. E manca. All'epoca, senza il digitale, venivano fisicamente in azienda. E questo manca o no? Manca molto a mio padre, perché l'ho compensato, diciamo, all'esterno dell'azienda grazie alla vita associativa, però manca a mio padre perché in realtà l'azienda era il cuore, diciamo, delle relazioni. Arrivavano tutti, politici, scrittori, e tutti interfacciavi con questi mondi, stavi seduto in azienda e il mondo ti entrava dentro. Oggi è un mondo diverso dove devi, come dire, recuperarlo dall'esterno dell'azienda, perché le aziende sono sempre più unità di produzione e l'imprenditore deve essere uno che deve girare. Ma è vero che eravate gli unici che avevate i caratteri originali cirillici per stampare in russo? No, non lo so se eravamo gli unici, però evidentemente. Per chi stampavate in russo? Eravamo aperti già allora al mondo, diciamo. Propaganda veniva dalla Russia, quindi siamo molto legati alla carta stampata, tutto senza quello limiti, che si stampa, insomma, per noi è senza limiti. Senza ma. Stampiamo tutto. Presidente, dopo D'Amato, lei è il secondo presidente di Confindustria del Sud e ha detto non esiste il Sud, ma esistono i Sud, cioè? E chi conosce il Sud e conosce l'Italia sa che l'Italia è un po' a macchia di leopardo, abbiamo città che sono molto avanti, città che sono più indietro, città che hanno meno criticità, città che hanno più criticità, quindi capire queste dimensioni del Sud ci aiuta anche a capire cosa dobbiamo fare nel Sud e per il Sud e per l'Italia all'interno del paese, ma questo vale anche come paese, perché esistono anche i nord, non solo i sud. Cioè esistono le zone invece che... Capire in termini analitici il paese ti aiuta, diciamo, a poterlo rappresentare in chiave economica, che è il nostro ruolo. Certo, ecco, la Brexit ha scatenato una grande crisi crisi sui mercati finanziari, secondo lei ci rimetterà di più la Gran Bretagna o l'Europa? Sul medio termine ci rimetterà la Gran Bretagna, sul breve è chiaro che effetti speculativi e di ansia sui mercati di borsa determineranno degli effetti che però non sono collegati ai fondamentali né d'Europa né d'Italia. L'Europa è il più grande mercato, il più ricco mercato al mondo ed ha un debito aggregato inferiore agli Stati Uniti d'America. La mancata integrazione politica dell'Europa ci fa subire shock negativi e non ci fa dare shock positivi. Io penso che l'Europa storicamente sia andata avanti per traumi e mi auguro, anzi, e questo può essere un trauma, questo è il trauma che innesca, che ci fa fare il grande salto, una cosa di grande utile. Capacità di reazione a partire dalla politica italiana. Senta, ma poi rischia di esplodere la Gran Bretagna? No, non penso, diciamo, che si arrivi a questo, ma è evidente che la Gran Bretagna sarà una Gran Bretagna diversa senza l'Europa. E l'Europa, se riesce ad avere una grande capacità di reazione, dimostra innanzitutto alla Gran Bretagna, ma non solo, ma alle sue giovani generazioni, che ha una capacità di una visione politica alta, e la partita si gioca sulla crescita dell'Europa, su cui dobbiamo costruire, diciamo, una idea di Europa diversa. Su cui, ecco, ma il sistema bancario italiano sembra tremare comunque adesso più di tutti. Sono al collasso le banche italiane? No, le banche italiane non sono al collasso, hanno i fondamentali a posto, sono quelle che hanno meno derivati in pancia, hanno finanziato l'economia reale, hanno subito gli effetti della criticità dell'economia reale dal 2008 ad oggi, ma di qui a dire che sono al collasso è tutt'altra cosa. Noi non dobbiamo distinguere gli andamentali di borsa dai fondamentali delle imprese. Le banche italiane hanno i fondamentali a posto, a parte qualche criticità e chi non ne ha, ma in realtà l'Italia ha un sistema bancario che finanzia le imprese molto più di altri sistemi. Ma non sarebbe il momento di proteggere le banche italiane come hanno fatto i tedeschi prima di entrare della messa in vigore del bail-in? Questo momento non bisognerebbe cogliere l'attimo? Questo è un momento, oggi anche l'amministratore di Intesa San Paolo, diciamo, riconosce il fatto che sul bail-in evidentemente siamo stati un po' distratti, e questo è il momento di dare una grande capacità di reazione all'Europa attraverso l'Italia, mettendo in sicurezza i fondamentali. Cioè rinviandolo, per parlare chiaro? Lasciando i rischi alle istituzioni finanziarie e non ai risparmiatori, ed evitare tensioni ed ansie gratuite che comportano. Vabbè, quindi poi rinviandolo, ma per dirla in italiano. Più che rinviandolo, io penso che l'Europa deve riaprire, diciamo, il dibattito sulla questione di unione bancaria, sulla governance economica, sulla condivisione dei rischi per la riduzione dei rischi, e forse il tempo è maturo per avere un ministro delle finanze europee che abbia il potere di indirizzare alla crescita la politica economica europea. E si aspetta che capiti questo nell'incontro tra Renzi, Hollande e Merkel? Noi abbiamo grandi aspettative sull'Europa, e dopo Brexit abbiamo anche cambiato la nostra agenda. Noi avevamo come priorità la questione italiana. Dopo Brexit, secondo noi, la questione europea è prioritaria rispetto alla questione italiana, e dobbiamo lavorare tutti su questa direzione. Ecco, ma che cosa di concreto si aspetta che possa uscire da questo incontro? Qualche linea, qualche decisione? Una decisione che porti, diciamo, a quello che abbiamo detto anche in assemblea pubblica: uno scambio sovranità per crescita, una idea di visione, non di constatazione. Se vogliamo, all'Europa serve quello che serve all'Italia: più politica, non meno politica, quindi meno burocrazia, più politica alta e più idea di crescita. Ecco, ma lei sarebbe deluso se dall'incontro fra i tre non uscisse qualcosa di preciso? Molto. Va bene, cos'è che si aspetta esattamente? Io mi aspetto, diciamo, un'idea di Europa su cui possiamo convergere tutti. Io mi aspetto che si dia dimensione a una bellissima frase di Jean Monnet, che diceva: i miei obiettivi sono politici, le mie spiegazioni sono economiche. Spero che i tre ripartano dalle spiegazioni economiche per darsi obiettivi politici. Ecco, ma che cosa si aspetta che faccia subito il governo? Il governo ha due questioni ormai in mano. Uno, essere protagonista di una grande stagione europea, e secondo me l'Italia in questo momento può giocare una grande stagione, perché con il venir meno dell'Inghilterra e anche lo spostamento di alcune istituzioni dall'Inghilterra ad altri paesi europei, noi possiamo e dobbiamo giocare una nostra. Parliamo delle banche? Parliamo delle banche, parliamo dell'EBA, parliamo dell'Ufficio Internazionale Brevetti. Dove andranno? Dall'Inghilterra a dove? In quali paesi? E questa è una questione istituzionale. Poi c'è una questione politica sull'Europa, che abbiamo detto, e dall'altra parte c'è una questione italiana. Noi, certo, dobbiamo dobbiamo dimostrare all'Europa che sappiamo fare le riforme nel paese, ma dobbiamo farle nell'interesse degli italiani e dell'Europa. Ma lei è per l'uscita rapida dell'Inghilterra oppure lenta come vorrebbe la Merkel? Guardi, in questo io non sono dogmatico. Penso che dobbiamo evitare di aggiungere traumi a traumi. È evidente che l'agenda la deve dare l'Europa e non l'Inghilterra. Per chiarirci. Senta. Prodi dice adesso mai più, molto drastico, ragione. Ragione perché nel nostro paese, in Europa, la questione temporale è stata sempre una questione che abbiamo vissuto come marginale. Adesso la questione temporale è importante quanto la questione di merito, quindi non solo cosa vogliamo fare e come, ma anche in quanto tempo lo faremo. Questa crisi, in realtà, vederla bene, potrebbe trasformarsi in una vera opportunità, se non di breve, di medio periodo. Assolutamente sì, trasformare i vincoli in opportunità è quello che facciamo dentro le imprese, dobbiamo farlo come paese e come Europa. Questo è un vincolo che deve diventare una grande opportunità. Senta, l'altro giorno a San Pietroburgo, Putin, parlando di Renzi, ha detto che l'Italia può andare fiera di avere un presidente così. Lo pensa anche lei? Cioè, mi chiede se sono d'accordo con Putin. Sì, è d'accordo con Putin. Diciamo che sono contento che un leader di un altro paese parla positivamente del presidente del Consiglio del mio paese, perché penso due cose. Io sono uno che quando va all'estero non parlo mai male del mio paese. E secondo, posso condividere o meno alcune cose del governo, alcune cose le condividiamo, altre no, ma il successo del mio paese è il mio successo e quindi in questo sono d'accordo. Ma Putin è un leader europeo secondo lei? Putin è un leader del suo paese, ognuno ha il paese. No, vabbè, ma nell'Europa dall'Atlantico agli Urali, lei ce lo vede? Non lo so. Quindi queste sanzioni bisognerebbe toglierle, più che mai adesso. Toglierle o depotenziarle nell'interesse economico del paese, poi ci rendiamo conto che ci sono delle regole Però dopo l'uscita d'Inghilterra, la posizione che la tiene fuori si depotenzia parecchio. Si depotenzia, esattamente. Senta, cosa le piace di più di Renzi? Di Renzi cosa mi piace di più? Mi piace di più il fatto che è giovane, pone una questione di futuro del paese, assume la responsabilità di scelte, a volte condivisibili o meno, ma le fa e riporta la politica all'attenzione alta. E quindi in questo senso è quello che abbiamo sempre chiesto, alla politica di fare la politica. E di meno? E di meno io ho difficoltà a vedere i difetti negli altri, perché siccome sono imprenditore cerco sempre di fare tesoro dei punti di forza. Cioè ha difficoltà a vedere anche i suoi, quindi gli altri. Pensa un po' gli altri, per solidarietà. E poi lo conosco da poco, quindi non sono in grado ancora di aver preso bene le misure. Senta, intanto la Confindustria l'ha detto prima, anche lei, ha deciso di schierarsi con chiarezza all'unanimità sul referendum per il sì. Perché? Perché è una precondizione, la governabilità e la stabilità del paese e la revisione dell'articolo 5, che evita conflittualità tra governo e regioni, per noi sono la precondizione per costruire dei governi stabili, quindi è una questione di governabilità e non di governo, per costruire delle stagioni di riforme economiche nell'interesse del paese. Senta, ed evitare campagne elettorali in sei mesi. Ma è stata personalizzata troppo? È un difetto questo? Secondo noi sì. Personalizzare significa, invece di confrontarci su contenuti e argomenti, diventa il sì al governo o alla persona o contro. Questo è un errore. Perché è significativo che all'unanimità il Consiglio generale di Confindustria, in tutta Italia, tutte le categorie hanno votato il sì al referendum. Senta, c'è evidentemente una ragione economica molto chiara. In questa situazione difficilissima per le banche, comunque, la prima banca, prima, seconda, l'Unicredit, da più di un mese non riesce a trovare il nuovo amministratore delegato. Ma non è una follia? Dobbiamo spiegare che gli azionisti facciano presto, innanzitutto nel loro interesse. Sì, ma un mese. Dobbiamo spingere affinché... Ma cosa significa? Significa evidentemente che c'è un po' di confronto, mettiamola in termine generoso, all'interno. Prima si risolve meglio è, perché bisogna trovare la persona giusta per una grande banca italiana che può contribuire molto alla crescita del paese. Ma nel mondo cosa possono pensare di un paese che nella sua prima banca non riesce a nominare l'amministratore delegato? Ma lascio le strumentalizzazioni agli altri, dobbiamo solo auspicare che ciò avvenga quanto prima. Non è banale, Senta, cosa pensa dell'intervento del neo sindaco di Torino, Appendino, contro il presidente della Fondazione San Paolo? Ha diritto di contestare quella nomina? Io penso che questo sia un paese che vive di confronto e muore di conflitto. Sarebbe più opportuno confrontarsi prima e poi porre delle questioni di merito, anche nella logica di rispetto tra istituzioni del paese. Questo vale anche per quanto riguarda la TAV. Lei si è dichiarata contraria, anche se dice io non posso decidere tanto. Sarà duro il confronto fra Confindustria e 5 Stelle, secondo lei? Non lo so, lo vedremo. Ah. Noi siamo per la TAV, lei lo sa, perché è una grande opera infrastrutturale che non solo, come dire, fa recuperare domanda, nell'interesse anche di quelle piccole e medie imprese che 5 Stelle intendono spesso rappresentare, difendere, ma nell'interesse del Paese. La nostra economia non è in ripresa, ma il racconto che si fa è sempre quello del bicchiere mezzo pieno. Ma non tocca a voi dire tutta la verità, anche l'altra parte? Gliel'ho detto, noi siamo pessimisti nelle previsioni, ottimisti nelle aspettative, più diciamo coerenti di così in questa logica. Cioè qual è il pezzo di verità che manca allora? Il pezzo di verità è che il Paese non è duale solo dal punto di vista geografico, è anche duale all'interno delle sue imprese. Lo sappiamo noi, lo sanno le banche, lo sa Banca Italia. Le medie di settore non sono più significative. All'interno di ogni settore abbiamo aziende che vanno bene e aziende che vanno male. È evidente che dal lato di chi va bene il bicchiere è mezzo pieno, dal lato di chi va male il bicchiere è mezzo vuoto. Noi dobbiamo avere la capacità di rappresentare queste due anime, una più in difficoltà, una più avanzata, e costruire un grande percorso paese. Però anche le imprese devono dire la verità. Infatti lo abbiamo detto in assemblea pubblica, noi abbiamo detto che piccolo è una condizione da superare, e quindi se noi chiediamo al paese di crescere, prima all'interno dei nostri cancelli dobbiamo crescere noi, e quindi dobbiamo, e quindi gli imprenditori devono rischiare di più. Devono rischiare di più, devono aprire i loro capitali a investitori istituzionali, devono, cioè, fare più capitale di rischio, meno capitale di debito. Essere più imprenditori e meno produttori, essere eccellenti in ogni funzione aziendale, aprire al management, è una grande stagione di sfida culturale in cui noi dobbiamo reagire innanzitutto dal di dentro dei cancelli e poi chiedere dal di fuori dei cancelli una politica economica coerente. Ecco, in borsa esiste il segmento elite fatto per le piccole e medie imprese, cioè sostanzialmente per il tessuto imprenditoriale italiano. Come può diventare un punto di riferimento sempre più importante, perché per adesso non è così valorizzato? Si deve diventare un punto di riferimento quantitativamente rilevante, cioè significa che il numero di imprese che devono entrare nel progetto elite devono essere tante, non solo poche centinaia, e qui Confindustria può agire in maniera proattiva. Le nostre associazioni devono individuare tra i nostri associati 160.000, incrementati del 2% negli ultimi anni, giusto per dare una risposta in diretta a una delle domande che mi ha fatto, per individuare le nostre imprese e invitarle a inserirsi nel progetto elite, cioè non aspettare che le imprese chiedano alle associazioni, ma le associazioni individuarle e far diventare un progetto di migliaia di imprese, perché se queste migliaia di imprese riusciranno a intercettare flussi di investitori italiani e stranieri per aprire i loro capitali, noi non solo attraiamo investimenti in Italia grazie alle nostre imprese, ma partecipiamo a un grande progetto paese. Però, questa è l'idea di Confindustria che noi abbiamo. Però, Presidente Boccia, molti imprenditori non ci sentono da questo orecchio, perché è il limite delle imprese familiari, la difficoltà evolve verso il management, verso quelle forme di finanziamento diverso da che rompe il cordone con le banche e va sul mercato vero dei capitali. È stata una delle timidezze più che il limite, però siccome poi il sistema economico italiano va avanti anch'esso per traumi di fronte ai problemi e a tassi di interesse alti e a credit crunch, o crei una terza via che è questa oppure sei fuori. Per dire una cosa molto positiva, una grande impresa italiana, la Salini in Pregilo, proprio in questi giorni è stata protagonista dell'apertura del nuovo canale di Panama. È un grandissimo successo italiano mondiale. È solo un episodio o è la punta di un iceberg? No, non è un episodio. Dobbiamo essere orgogliosi, diciamo, di queste nostre imprese italiane. È un episodio, tra l'altro, collegato anche alla Mapei, che è un'impresa industriale nel nostro past president. Quindi dobbiamo essere orgogliosi ogni volta che l'Italia fa l'Italia. Ritornando a fare quello che abbiamo fatto negli anni passati, essendo un grande player globale grazie alle nostre imprese manifatturiere e di costruzione. Ecco, parlando di grandi imprese di Sud, il suo predecessore Squinzi ha detto che l'Italia industriale non può essere la stessa senza l'Ilva. Ha ragione? Ha ragione, perché l'industria cosiddetta primaria, se non è competitiva, è chiaro che dà problemi, diciamo, alle industrie manifatturiere. Ma e allora? Quindi questa è una grande idea di politica industriale in cui noi non possiamo perdere pezzi. Ricordiamo che noi siamo un paese di trasformazione che non ha materie prime. Se perdiamo pezzi importanti di industria primaria, riduciamo la competitività anche delle altre industrie manifatturiere. E quindi in questa chiave di lettura di interesse nazionale vanno difesi gli interessi di una dimensione che è l'Ilva, che è un'industria primaria, nell'interesse dell'intera politica industriale. Però Carlo De Benedetti su Sole 24 Ore recentemente ha scritto che la nuova finanza e le nuove tecnologie digitali produrranno dal 40 al 60% di posti di lavoro in meno. E allora ci modernizziamo, sì, per essere dei... Questo è vero di posti tradizionali in meno, ma ci saranno altri tipi di lavoro che sostituiranno i vecchi posti. Però in America, in realtà, in America l'America ci insegna che i posti di lavoro persi sono persi per sempre, anche se riparte l'economia. Sì, è il primo rimbalzo. Se tu vieni da una crisi, è evidente che la prima parte di crescita comporta il fatto che aumenta la crescita ma non aumenta l'occupazione. Il secondo step è l'occupazione che ritorna rispetto alla crescita. Senta, a proposito del Sole 24 Ore, dopo la fusione tra la Stampa e la Repubblica, assisteremo anche a quella tra il Sole e il Corriere? No. Sicuro? Assolutamente sì. Va bene. In America Giannini ha fondato la Bank of America, la più grande banca di tutte. L'ha fondata, pensavo ai ragazzi delle start-up, finanziando le idee anche senza garanzie patrimoniali. È diventata la banca numero uno. Capiterà anche da noi? Bisogna, come dire, prendere a riferimento questa cosa, però distinguere due aspetti. Una è finanziare il futuro, però creare degli strumenti che finanziano il futuro, quindi degli strumenti e delle istituzioni che possono andare su quella linea. Altra cosa le banche ordinarie, altrimenti, come dire, aggiungiamo rischi sistemici ed altre questioni. Vabbè, però bisogna trovare un luogo dove questi giovani che hanno idee... Esattamente, ma noi adesso la piccola industria di Confindustria ha lanciato qualche anno fa un progetto che si chiama Adottup, cioè l'idea di adottare da parte di imprese esistenti una start-up. Start-up. Noi dobbiamo mettere insieme sistema finanziario, sistema imprenditoriale, start-up per una grande stagione in cui si adottano queste cose, perché molte volte l'impresa di successo ha poche idee, che vengono dai giovani, ne parlavamo prima con Francesco Boccia. I ventenni hanno una capacità di innovazione molto superiore ai trentenni e ai quarantenni. Noi dobbiamo attrarre questi. Ma alla fine il sistema industriale italiano ha superato definitivamente la fase della delocalizzazione? Penso che il sistema italiano abbia chiaro, diciamo, quale industria noi dobbiamo immaginare, che è un'industria ad alto valore aggiunto, ad alta intensità di capitale, il che significa che non puoi realizzare delle questioni in paesi cosiddetti low cost, ma devi farlo, diciamo, in Occidente. Questa è la grande sfida. E in questo ho anche razionalizzato una cosa che è un po' l'orgoglio e la rabbia, diciamo, degli italiani. Noi siamo secondi sapendo di essere primi. Perché siamo secondi? Perché paghiamo il 30% di costo di energia in più rispetto a un'impresa tedesca, il 20% di global tax rate in più rispetto a un'impresa tedesca, abbiamo un costo del lavoro per unità di prodotto del 30% in più negli ultimi 10 anni rispetto a un'impresa tedesca e siamo secondi. Sfiderei qualsiasi paese a fare secondo con questi deficit di competitività, quindi siamo orgogliosi di essere secondi e siamo arrabbiati perché sappiamo di essere primi, però dobbiamo fare secondo. Cioè facciamo un campionato del mondo di box con un braccio legato dietro? Però se ce lo slegano diventiamo i primi al mondo, quindi ci aspettiamo che ce lo slegano quanto prima, così diamo mazzate, diciamo, in tutta Europa. Diciamo, senta, senta, mi è sembrato ottimista nell'insieme di questa intervista. Perché napoletano, scaramantico? Perché? Oppure perché? Guardi, se ho un imprenditore... Ma lei è scaramantico o no? Ci crede? Allora, io sono, diciamo, dell'idea di De Filippo, che diceva essere scaramantici è da ignoranti, non esserlo porta male. Quindi consiglio, diciamo, questa idea. Quindi la mattina me lo ricordo. La seconda, se lei toglie l'ottimismo della volontà a un imprenditore, l'imprenditore deve cambiare mestiere. Il giorno in cui non lo sarò più, evidentemente non solo non potrò più rappresentare gli industriali italiani, ma devo chiedere un posto di lavoro, cosa che mi auguro, diciamo, che per dono di Dio non avvenga mai. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, l'SMS pubblicità.